Non so chi credi, baby, non so chi vedi, anche se non volevi sono ancora in piedi. Ora mi preghi ma non conta, la mia bomba è pronta, perciò zitti ascolta, brutta stronza. Vorrei scordarti e insultarmi, sono debole, la conferma. Per non pensarti gioco a PlayStation, fumo erba. Sto davvero a terra, ho scommesso, eri un rischio. L'ho perso, non capisco, non conosco pezzo di disco che mi sfoghi. Stitch che in queste occasioni che si riconoscono gli amici buoni. Io ne ho pochi, stagioni su stagioni, tutto passa, tutto cambia. Non ho più le tue labbra, questo fa rabbia. Si sta, si vince, si perde, a volte si sbaglia. Si infuoco nella pancia, un vuoto tra le braccia. Ancora un po', poi tutto sarà a posto. Forse dovrei lottare per riaverti ad ogni costo. Forse ti sto scrivendo solamente per il morso. La verità è che tu sei il mio più bel ricordo. Voglio e t'amo, tu sei tutto ciò che voglio, tutto ciò che sogno e di cui ho bisogno in questo mondo. Voglio e t'amo te, la tua dolcezza, ho bisogno di te, di ogni tua carezza. Voglio e t'amo, tu sei tutto ciò che sogno, tutto ciò che voglio, di cui ho bisogno. Voglio e t'amo te, voglio e t'amo te, voglio e t'amo te. Ho passato troppo tempo nella mia vita, l'ho sprecato sui rimpianti di una storia ormai finita. Sono troppi i ricordi che ritornano ai miei occhi, giorni su giorni, su quelle spiagge, suoi dintorni. Immagini senza commento, ero completo per un momento. Mi sembra di tornare indietro, di nuovo faccia a faccia, tu hai le lacrime negli occhi. Queste donne che se vogliono ti fottono come stronzi. La odio, se mi fa stare troppo male. La amo, se penso tutto ciò che mi rimane. La odio, se lamento ciò che ho passato. La amo. Hai presente, Joe, quando qualche cosa manca? Lo sai cos'è? È la memoria che fa rabbia, il vuoto quando vengono i ricordi. La lezione, tu lo sai, la vita non fa sconti. Voglio e t'amo, tu sei tutto ciò che voglio, tutto ciò che sogno, di cui ho bisogno in questo mondo. Voglio e t'amo te, la tua dolcezza, ho bisogno di te, di ogni tua carezza. Voglio e t'amo, tu sei tutto ciò che voglio, tutto ciò che sogno, di cui ho bisogno. Voglio e t'amo te. Cosa più bella che ho avuto, eri malinconica. Vedi la mia anima, ci hai sputato, sei una stupida. La musica forse non può toccarti. Ti chiedo, vuoi sentirmi? Ti prego, vuoi ascoltarmi? Io pensavo al domani mentre tu te ne andavi. Il nostro rapporto mi è morto tra le mani. Ma col tempo le cose cambiano e anche noi cambiamo. Io t'odio e t'amo, bebè, odio e t'amo. In fondo la vita lo sai, come l'amore è l'amico, tutto ciò che dà. Un giorno e l'altro. Voglio tutto ciò che sogno, di cui ho bisogno in questo mondo. Voglio e t'amo te, la tua dolcezza, ho bisogno di te, di ogni tua carezza. Voglio e t'amo, tu sei tutto ciò che sogno, tutto ciò che voglio.